Buongiorno ragazzi, solito appuntamento. 35 gradi oggi, ma i leoni non mollano, ragazzi, eccoli lì. Sono tutti lì. Qui è altro che ciupiti di Bobovir. Tutti convocati di Carlo Genta. Per calarci nel clima europeo, visto che da ieri abbiamo capito che la Roma è abbastanza sfigata e che comunque c'è una nuova lista delle pretendenti al trono. Ciao Giovanni Capuano. Ciao, buon pomeriggio. Anche se tu sai che oggi per me la notizia è un'altra, sai quale? Quale? Lotito che porta a porta, non da Vespa. Poi ne parliamo a porta a porta. È un'evoluzione del marketing e secondo me è un'evoluzione della specie. È un'evoluzione della specie, anche se a me è venuto in mente, anche guardandolo, Galliani che suona a casa di Destro, ti ricordi qualche anno fa? Magari sì, tornerà. Come no, anche quella era un'evoluzione del calciomercato e io di quella scena di Galliani che va a citofonare a Destro per convincerlo ad andare in prestito al Milan, in realtà ho un giudizio assolutamente positivo. Cioè, se tu non puoi muoverti con i jet privati e con i budget, devi anche avere l'umiltà di fare così. E ieri secondo me la Lazio ha fatto un'operazione d'immagine fantastica, visto anche quello che me è il rapporto logorato con i tifosi. È qualcosa che magari può tornare ad avvicinare la squadra ai tifosi, chi lo sa. Avvicinare il tifoso allo Tito, dubito fortissimamente. 800 24 00 24, numero verde per chiamarci, messaggi 349 238 6666. Questa è solo la prima parte dei nostri appuntamenti sportivi, come sapete, perché insieme dalle 14, da ora fino alle 15, e poi sempre sottoscritto Giovanni Capuano con le serate olimpiche, tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20. E questa sera rideremo un po' meno, perché faremo tante cose. Sì. Però se lo vogliamo dire, parliamo della questione Svazer. Oggi c'è la notizia della negatività dell'ultimo suo controllo, quello disposto a giugno dal CONI, poi domani partono Svazer e Sandro Donati per andare a Rio per difendersi. Ci sono quegli audio che oggi in tanti hanno sentito sul sito di Repubblica e insomma proviamo a farci due chiacchiere anche noi dalle 18. Sarà con noi Sandro Donati, almeno così ci ha promesso, ma questo argomento serio che è da fare, è da trattare, perché non siamo qui a fare pagliacci ma a seguire le Olimpiadi, però con vari sorrisi che arriveranno dopo. Grazie anche magari ai vostri WhatsApp che ci stanno divertendo moltissimo, ma non corriamo troppo, rimaniamo a monte, a bomba. A proposito, lo dico per inciso, ieri calendario della Serie B, non un evento epocale, in questi giorni si fa buono tutto, resta il fatto che Giovanni continua a pensare che la Serie B di Abodi sia all'avanguardia, ma anche per dettagli come quello di giocare il 24 ed il 30 di dicembre, come si fa in Inghilterra, come si fa in America, in NBA, in tutti i grandi sport professionistici. Quando ci sono le vacanze, la gente va a vedere lo spettacolo. A me è un'idea che piace, poi sosta dopo, quando gli altri saranno tornati al lavoro. Guarda, occupano uno spazio che è stato lasciato libero, non so ancora per quanto, perché in realtà pare che dal 2018 anche la Serie A possa andare ad occupare quello spazio, perché ha capito che esiste una richiesta forte, che c'è la possibilità di aumentare le presenze agli stadi, che non fa mai male, e anche gli ascolti in TV, e quindi vendere meglio il prodotto. Però c'è da dire che da qualche stagione a questa parte questa cosa, che non è più nemmeno un esperimento, se tu parli con Abbodi, dice non è più un esperimento, è una realtà, una certezza consolidata, ci sono i numeri e ha dato dei risultati importanti, e significa che forse quando tante teste si delegano poi a una persona delle decisioni, si può anche fare qualcosa di buono, cosa che raramente accade tra i 20 presidenti della Serie A. Anche perché lì hanno un sacco di tempo per litigare anche su quisquiglie, come avrebbe detto Totò. Ci sono nuove acquirenti cinesi del Milan, no? Cosa fatta? Oggi titolone della Gazzetta. No, non è niente fatto, niente fatto. Poi ne parliamo. Tra l'altro c'è Fininvest che insomma smentisce informalmente tutto quello che è stato scritto oggi sulla Gazzetta dello Sport. C'è questa, smentisce a prescindere Fininvest. C'è questa assoluta, totale confusione che accompagna da due anni a questa parte le trattative che riguardano il Milan. Noi in questi giorni qualcosa abbiamo provato a dire. Sì. Diciamo che fra due settimane potremmo avere qualche idea chiara in più, ma è una situazione estremamente fluida. Allora, invece abbiamo detto della nuova Champions League che si è disegnata. Stasera aspettiamo Sassuolo al Largo del Lucerna, ma ci auguriamo tutti che possa entrare nel tabellone dell'Europa League. Certo che dicevamo prima, la Roma ieri sera non è stata fortunatissima, pur essendo lontana, essendo in altre cose faccende affaccendata, ovviamente in questa preparazione però si giocavano delle partite che alla Roma interessavano da vicino. Guarda, la Roma è stata sfortunatissima, è andata a due minuti da un autentico miracolo, perché tale doveva essere quello che dovevano fare i giallorossi per essere testa di serie domani nel sorteggio del preliminare della Champions League. Dovevano essere eliminate tutte e tre, Shakhtar Donetsk, Anderlecht e Ajax, tutte e tre partivano da risultati positivi all'andata. Due si sono schiantate, lo Shakhtar e l'Anderlecht. La terza, l'Ajax, a due minuti dalla fine rischiava supplementari di eliminazione. Poi dopo è arrivato il gol, e quindi l'Ajax va tra le teste di serie, la Roma scende nella seconda urna e diciamo la verità, domani vada come vada sarà mezzogiorno, no, sorteggio? A mezzogiorno ovviamente c'è una differenza tra pescare il Manchester City, che ha speso 130 milioni di euro in questo mercato e per non Guardiola ha ancora finito, e pescare ad esempio l'Ajax, che anche insomma in questo turno si è dimostrata una squadra abbastanza in difficoltà, indebolita dalla partenza di Milik, senza una vera alternativa in attacco. In mezzo ci sono il Villarreal, il Porto, il Borussia Mönchengladbach, che attenzione, se vi ricordate l'inverno scorso è stato alla Juve il primo posto nel girone, sì, di Champions, certamente, con due certamente pareti. Ma guarda, l'Ajax onestamente restano solo una delle maglie più belle, forse la più bella del calcio mondiale, e un settore giovanile che comunque produce giocatori, e il nome ovviamente che può fare effetto e impressione, non molto altro. Però certamente la Roma domani rischia nel sorteggio, che naturalmente vi racconteremo a quest'ora da questi microfoni. Sentiamo cosa ha detto Spalletti sul preliminare di Champions. Il nostro sforzo deve essere a considerare tutti forti, ma ugualmente a credere di poter passare il turno contro chiunque, per cui sono convinto che sarà così, ecco, e sarà una partita tosta. L'unico problema è che è la prima partita che andiamo a giocare, quello un po' di fastidio ce lo dà con l'inizio del campionato, che va fatto altrettanto bene. Se si va a vedere lo score delle ultime 10 situazioni che assomigliano a queste, le ultime 7-8, è difficile trovare, se non nessuno è riuscito a partire a qualificarsi, a vincere la prima di campionato nelle ultime 10 competizioni. Sappiamo bene come il preliminare per noi sia una brutta bestia, una brutta gatta. Solo Milan e Fiorentina negli ultimi anni sono riusciti a superarlo, ma a me piacerebbe anche chiederlo agli amici da casa. 800 24 00 24, se vogliono intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i messaggi SMS e WhatsApp. C'è tolto il Manchester City, che oggettivamente è superiore alla Roma, tra Villarreal, Porto, Borussia Mönchengladbach e Ajax, in quale di queste partite e la Roma entrerebbe da favorita? Ma io te l'ho detto, forse con l'Ajax. Secondo me è solo con l'Ajax, però solo con l'Ajax, alla pari con il Villarreal. Il Porto non lo vorrei mai, e Borussia Mönchengladbach uguale, perché abbiamo visto l'anno scorso, trattasi di squadra estremamente seria, soprattutto affrontata a inizio stagione, insomma. C'è Spalletti che lo ammette, vincere il preliminare è difficile, ed possiamo essere tutti d'accordo. Della Champions ha parlato invece da un altro e alto pulpito, cioè quello di chi sogna legittimamente di vincerla, anche Barzagli. La Champions è un torneo a parte, non è facile, ci sono altre 3-4 squadre di grande caratura. Noi come sempre ripartiamo per vincere in Italia e per sognare ancora in Champions ed arrivare più in fondo dell'anno scorso. In Europa ci sono sicuramente squadre con grandi difensori. Noi quest'anno, con l'arrivo sia di Dani che di Benatia, abbiamo fatto un salto in avanti molto buono. Vedo già i messaggi dei laziali, Giovanni Capuano. Dipende dai punti di vista, ovviamente, l'augurarsi o meno un'avversaria un po' più fragile, un po' più tranquilla per la Roma nel preliminare. È un amico laziale scrive: dipende dai punti di vista, tutti a Manchester per l'ennesima partita di tennis. 800 24 00 24, numero verde. Noi ripeteremo a Noia che è interesse di tutti, è interesse di tutti che non cominciare con ranking UEFA che fa caldo. A proposito di ranking UEFA, non cominciare questa con sera, ranking UEFA che questa sera Sassuolo Lucerna fa un caldo pazzesco e tutti dobbiamo fare il tifo per il Sassuolo. Perché l'obiettivo di questa stagione è recuperare 2.250 punti all'Inghilterra. Ma sai, io chiedo agli ascoltatori se c'è qualcuno che non farà il tifo per il Sassuolo in questo preliminare con il Lucerna. Credo che sia in grado di mettere d'accordo tutti, no? Un po' come la pizza o la pasta con ragù. Di Francesco, vuole vincere naturalmente, ma tra l'altro Sassuolo ci tiene particolarmente, in maniera totalmente corretta, ad entrare nel tabellone dell'Europa League, a differenza di molte altre squadre italiane che invece preliminare l'hanno affrontato con una gamba sola su una gamba sola e con le mani legate dietro la schiena. Di Francesco: per abitudine agli allenamenti e alla mentalità che abbiamo acquisito in questi anni, i miei ragazzi scenderanno in campo per fare la partita e cercare di vincerla. Poi è normale che il campo poi darà le sue risposte, però a livello psicologico prepareremo la partita per poter vincere, che siamo un po' poco abituati a questo tipo di partite, magari andate e ritorno. Non ci sto pensando. Non ci sta pensando, invece ci pensa davvero. Sì, ci facciamo due risate con Montella. Allora, il Milan ha giocato contro il Chelsea. No, contro il Chelsea. Sì. Perso 3-1. Per Montella è stata la partita migliore di questa prima fase, ma il meglio è arrivato in conferenza stampa. Però il dato del possesso palla era 60 Milan 40 Chelsea, 63 39 7 comunque. È un dato che fa capire che la squadra ha avuto coraggio di cercare di tenere il possesso palla, di non buttare via il pallone, di seguire quelle che sono le sue indicazioni. È un dato che le fa piacere vedere. The question was after the first half they realized you know looking around the stadium 64,000 people watching this game and they're moving the ball right the ball possession uguale da tanto. Cioè, in pratica mi fanno la domanda sul possesso palla, il traduttore la traduce in inglese, occhi esterefatti di Montella. Ma alla fine del primo tempo, guardando intorno, ti sei reso conto che c'erano 64.000 spettatori allo stadio? Non si sono capiti, ma sai, gli americani, il possesso palla nel calcio, dato statistico che secondo me nel calcio conta praticamente nulla dal mio punto di vista, cioè il dato statistico meno significativo che si possa trovare, chi comanda il gioco tiene a palla, il Barcellona asfalta tutti da questo punto di vista, ma qualche volta perde magari con l'Atletico Madrid di turno. Però questa notte è stato un buon Milan dignitoso e non è la prima volta che succede in questo campionato. È finita 3-1, ma al 70esimo era 1-1, l'altro con ottime parate di Courtois. È un peccato. Cosa? È un peccato che gli sforzi che Montella sta facendo e comunque questo precampionato dignitoso siano poi vanificati da tutto il caos che c'è intorno. E che rende ad esempio impossibile il mercato, rende impossibile dare a Montella qualche giocatore che serve, sia numericamente che qualitativamente, perché Montella non può allenare il Milan di Mihajlović. Certo, ma tutti stanno supplicando acquisti, anche Kuzka ha detto per favore qualche acquisto non sarebbe male, siamo qui in quattro gatti e se a uno viene il raffreddore, come al povero Musumeci che prima faceva fatica a parlare, diventa un casino. Si parla del paraguayano Gustavo Gomez, si parla di una cifra intorno ai 7 milioni, ma anche lì per il Milan di questi tempi 7 milioni anche a rate sono parecchia roba. Ne parleremo tra poco. Comunque Nicola da Brescia, prima del traffico, 800 24 00 24, numero verde. Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno Nicola. Buongiorno a voi, grazie della convocazione. tornando un attimo sul tema del Milan, e non tema tattico, diciamo, di squadra, ma sul tema societario, se fosse possibile, io sono sempre più basito su come, lancio questa provocazione, come una società come il Milan, che per 30 anni, grazie a Berlusconi, sinceramente grazie a Berlusconi, ha costruito forse la squadra più forte e più titolata al mondo, abbia perso questo valore commerciale e come abbia in qualche modo lasciato andare via tutte le sue stelle senza che si potesse fare qualcosa. Mi dispiace, cioè è come per un'azienda, per un brand, perdere metà del suo valore commerciale. Ripeto, non so se sia metà, ma è tanto. Sì, semplicemente per mantenere il valore commerciale, Nicola, ne abbiamo parlato anche ieri e lo faremo, ripeto, anche dopo il traffico, anche con voi se volete, 800 24 00 24, per mantenere quel valore commerciale devi investire. Se non hai i denari e la volontà per investire, fatalmente non riesci a costruire delle squadre all'altezza e progressivamente disperdi un po' del tuo patrimonio. Questa è la via seguita dal Milan, che è sul mercato, che sta cercando acquirenti, che sta guardando in Cina, e Berlusconi, abbiamo sentito dire, solo i cinesi e i petrolieri hanno il denaro che serve. Però è quello che è successo, Giovanni, non ci si può far nulla, e per questo il tempo continua a stringere sempre di più, perché ogni giorno che passa si sgretola un pezzettino di quel brand Milan che è stato costruito in 30 anni di successo. E dal 2012 è chiaro, è chiaro che è cambiata la politica di Berlusconi e di Fininvest sul Milan. Quello che fa male in questi mesi, ma anche in questi giorni, è che non ci sia comunque il tentativo di accompagnarla, questa uscita di Berlusconi, di Fininvest dal Milan, comunque con una serie di interventi che tengano il Milan e gli consentano di essere minimamente competitivo. Il Milan esce da un decimo, un ottavo, un settimo posto in classifica, e oggettivamente quest'anno non sta facendo nulla per mettere Montella in condizione di poterla volare. E ripeto, è un peccato. Se qualcuno ha visto questa notte la partita del Milan con il Chelsea, si accorgerà che qualche germoglio c'è, che qualche segnale c'è, e che allo stesso tempo c'è un'assoluta mancanza di strumenti per poter costruire qualcosa. Io vorrei che l'ascoltatore che manda questo SMS, ma la smettete di dire minchiate, specificasse a quali minchiate si riferisce. Comunque non credo che smetteremo di, quantomeno, di parlare di sport. 349-238-6666, numero per i messaggi e per i WhatsApp. Ma io preferisco chiacchierare con voi, così mi potete anche dire a viva voce di quali minchiate state parlando. 800-24-0024, numero verde. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati. Abbiamo le idee molto chiare con la società, siamo in contatto diretto e all'inizio sono state fatte delle valutazioni preventive che col tempo sta in qualche modo sono confermate sia da parte mia che da parte della società. Insomma, siamo d'accordo su cosa poter intervenire e dover intervenire, se è possibile intervenire. La mia risposta potrebbe diventare pericolosa, ma io credo che qualsiasi squadra sia migliorabile. L'ha dimostrato la Juve per rimanere nel nostro campionato, che vince da 5 anni e ha migliorato la squadra, vale per il Milan e quindi vale per tante altre squadre. Quindi mi ripeto, ma con il dottor Galliani siamo molto in sintonia sui ruoli sulla quale intervenire. Attraverso una serie di spostamenti di giocatori in regime di svincolo sono riuscito ad avere i tre quarti di Gentile. Grazie. E i sette ottavi di Collovati, più la metà di Mike Buongiorno. Ma io devo guardare la presente, Presidente, io il campionato con chi lo faccio? Ma ci metto ad ala fluidificante Daniele Piombi e ci metto ad ala tornante Pippo Baudo, non lo so. Berlusconi potrebbe pescare nel suo parco di conduttori televisivi. Io saluto e ringrazio, ci ha raggiunti in studio nonostante la giornata afosissima di Milano e nonostante siano i primi di agosto, uno dei principi del mercato, Fabio Parisi. Ciao Fabio, grazie. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Ciao. Ci abbiamo scherzato sopra, però ai tifosi del Milan viene pochissimo da ridere. Sì, devo dire che Io ormai sono 27 anni che faccio questo lavoro e in 27 anni non ho mai visto il Milan così in difficoltà. Ho vissuto la prima era, la seconda, la terza, il dominio, l'impero del Milan che era del mondo. Non tramontava mai il sole, esatto. Sull'impero del Milan, invece adesso forse per una mancanza di programmazione, un fatto di sempre pensare di essere invincibile o altre cose, si arriva a questa situazione. Però credo che il Milan, come società, come tifosi, come tutto, sono risorti da ceneri ben peggiori, sì. E quindi sicuramente ce la faranno a ritornare. Sì, anche se quello che però l'abbiamo sentito anche Montella, che poi insomma poverino non sa che cosa dire, dice non chiedetemi se questa squadra è migliorabile. Io dicevo prima, anche chi ha visto questa notte, per quanto possa contare un amichevole di agosto, esiste qualche germoglio, esiste qualche idea, ed è un peccato che si butti tutto via in un'estate in cui per ragioni in parte comprensibili e in parte no, si è comunque deciso scientemente di non mettere mano a questa squadra. Sì, quello che manca al Milan, secondo dal mio punto di vista, è proprio un concetto di programmazione. Se tu vuoi programmare, devi programmare e ci vuole del tempo. Non puoi intervenire. Del denaro. Ma sì, il denaro anche, però devi non diciamo che negli ultimi anni il denaro non è mancato al Milan, perché sono stati spesi di soldi. Forse quello che mancava era un pochino appunto la programmazione, il fatto di essere chiari con tutti e dire ok, prima o poi bisogna tirare una riga, azzerare, ripartire, ripartiamo, siamo il Milan, lo possiamo fare, lo faremo. Questa rincorsa così, poi ci sono i cicli storici, no? Cioè, anche la Juventus è stata 7, 8, 9 anni senza vincere per tanto tempo, poi ha vinto, poi è tornato indietro e poi ha rivinto, come ha fatto il Milan, comunque come farà ancora il Milan, è proprio un corso. Sì, sì, è come l'economia. Esattamente, è come l'economia, però ci vuole programmazione vuol dire avere i capisaldi. Non è possibile, secondo me, parlare di programmazione quando cambi quanti allenatori negli ultimi... Sei allenatori. Sono un indicatore di una confusione generalizzata. Sono di un fatto di così, di... può essere, sì, confusione, di un momento un po' strano, di affanno, di quello che c'è. Allora cerchi sempre... Chiaro che se poi hai 30 giocatori in rosa devi cambiare allenatori. Forse nel momento stesso in cui tu hai... una difficoltà oggettiva che è data non soltanto dalla mancanza anche di risorse, ma da tutta una situazione generale che il calcio italiano non ha più lo stesso appeal. Io ho detto, quando la Juventus decise di vendere Zidane, vendeva Zidane perché comunque qualsiasi giocatore andava alla Juventus, sì, sì. In Italia. Ora se lo vediamo De Laurentiis con un tir di soldi, di euro in cassaforte, fa fatica a trovare giocatori perché la concorrenza delle altre, il fatto che il calcio italiano ha meno appeal, allora è questo perché è rimasta solo la, certo, adesso, è rimasta la Juventus, adesso perché la Juventus. Sai, la Juventus ha fatto un discorso diverso, però volevo finire il concetto. Allora se tu hai un problemino magari di calciatori e non riesci a trovare calciatori, comincia a mettere un punto di fermo in panchina, cioè prendi un allenatore che dici tu per i prossimi 5 anni, perché abbiamo pensato, sarai l'allenatore del Milan. Quindi se il primo anno ti salvi l'ultima giornata, è aberrante dirlo per il Milan, ma va però bene dici, lo stesso. Dico, vuol dire che il secondo anno arriverai in Coppa in Europa League e magari il terzo anno tornerai in Champions e poi in 4-5 anni potrai tornare ai vertici. Questo è. Allora se non hai uno devi avere l'altro, quindi magari punta su un allenatore... Ho capito, ma spigoli, hai capito? Sì, tanto sì, per dirci qualcosa, un discorso di questo tipo, che poi comunque anche questo deve essere legittimato da una società forte. Certo, non dimentichiamoci che quando il Milan ha preso Arrigo Sacchi e qualcuno ha storto il naso e ha fatto altre cose, l'hanno difeso a spada tratta, hanno detto è lui e si fa così, e i risultati si sono visti. Sceso in campo Berlusconi dopo la famosa partita con l'Espagnol dicendo a squadra e opinione pubblica: ragazzi, non scherzate, questo è l'allenatore e dovete passare sulla mia testa per cambiare. Qualcosa da dire, parli oggi o taccia per sempre. Taccia per sempre. Andrea da Firenze, parli oggi, subito e quando vuole. Buongiorno. Grazie, buongiorno. No, volevo dire, come si fa a dare valore a queste partite, questa pressione della televisione che fa giocare queste squadre per forza? Io l'ho vista la parte sia in Milan, ma in Milan, insomma, secondo me, io sono tifoso della Fiorentina, secondo me in Milan anche in difesa non è messo tanto bene. Poi il gioco fa Montella, cioè io l'ho visto a Firenze ed è un gioco dispendioso il suo, nel senso fisicamente bisogna essere sempre al minimo all'80%, perché appena io mi ricordo la Fiorentina bene la prima parte, può appena toccare fisicamente possesso palla, però in 90 minuti c'è stato delle parti così si tirava a porta. Cioè, Andrea, tu hai ragione, ma Montella sta facendo un miracolo in questo mese e mezzo. È vero che non contano nulla, ma voi provate a immaginare in che realtà è calato in questo momento, con attorno il nulla, con in mano una squadra che non è costruita da lui e non è costruita per il suo calcio. Guardate semplicemente come è stato destabilizzante il caso Icardi, il caso Mancini per l'Inter nella tournée negli Stati Uniti. Il Milan di queste settimane è in campo dignitoso, io sto dicendo questo, ed è un peccato che questo germoglio e questo sforzo non riesca a produrre altri risultati e altri investimenti che oggi credo Montella meriterebbe. Sì, però il discorso mi sembra che è quello che arrivi che arriva dal fronte societario, cioè il punto di partenza, Fabio Parisi, è questo. Cosa fa la società Milan? C'è un nuovo compratore cinese, quelli di prima sono spariti, Mister B ha fatto la fine che ha fatto. Secondo me è difficile anche parlare, come dici tu, di allenatori a medio-lungo termine o di campagna acquisto o di costruzione. In questo momento, forse, siccome tutta l'attenzione è in questo momento spostata sulle vicende societarie, chi compra, chi vende, chi arriva, George Mendes, i cinesi, Gancico e gli altri, stanno fortunatamente togliendo tanta attenzione anche il fatto che le amichevoli si giochino di notte negli Stati Uniti, poca gente le vede in televisione, altre situazioni stanno distogliendo l'attenzione da quello che sta facendo Montella sul campo, che finalmente sta lavorando cercando di creare una squadra. Poi che la squadra abbia degli interpreti di livello 1, livello 5, livello 10, questo si vedrà. Però sta lavorando, come diceva giustamente Joe, si vede la mano dell'allenatore. Poi se l'allenatore chiede di esprimere un gioco e gli interpreti, il primo violino sono io, l'orchestra stecca. Se poi ce n'è uno bravino, l'orchestra suona. Se c'è un leader, poi l'orchestra vince. Chiaro. E questo è un pochino il concetto. Quindi questo è forse una fortuna di Montella, nel fatto che è là. Però sta facendo il suo lavoro, non gli rompe le scatole a nessuno. Esatto, probabilmente anche lo stesso presidente Berlusconi non lo chiama la mattina alle 5 per dirgli devi far giocare Tizio, devi far giocare Caio. Risulta che abbia tutt'altri pensieri. Tu ci credi che uno come Jorge Mendes possa essere interessato al Milan? Ma Jorge Mendes non è interessato al Milan. Jorge Mendes è interessato a fare degli affari, e questo è un discorso diverso. Lui, come tanti, pochi, non lo so, comunque è un dato di fatto, lui mi sembra 6 mesi fa ha venduto una buona quota della sua società, la Gestifoot, a questo fondo cinese, e poi questo fondo cinese fa degli affari, è un fondo, certo, di investimento, ha tanti soldi e deve decidere come investirli. Secondo me un investimento oggi ancora, non so per quanto, ma oggi sul brand Milan, sulla società Milan, sarebbe giusto farlo. Devi farlo nel modo per dire ok, non per fare certe cose, programmo, deciderò chi comanderà, chi prenderà le decisioni, vado avanti. Ma George Mendes, lui fa da tramite, come se cedesse Cristiano Ronaldo o Radamel Falcao, e invece sta trattando il Milan. Questo, certo, è come, certo, ha trattato, credo, il Valencia o altre squadre. Sta, sì, facendo poi, il suo, poi la domanda è se per un club storico importante come il Milan siamo una bella fine finire in mano a un fondo legato a un grande procuratore che usa il calcio per guadagnare. Allora, adesso bisogna vedere se finisce nelle mani di un fondo, perché non si sa poi, o un fondo o un'azienda, non lo so, Suning è una cosa diversa, però non dimentichiamoci che anche grandi realtà tipo, non so, il Manchester City o il Paris Saint Germain sono a capo di un fondo, che poi facciano che poi sia Altani, che sia poi Altani, il capo cordato, un Qatar, altro, piuttosto che Abu Dhabi, piuttosto che altri, però è un'entità finanziaria. E però il problema è che Jorge Mendes, scusa, ti viene in mente poi società che diventano la cosa che mi lascia perplesso è che ben venga George Mendes, ben venga coi cinesi, venga coi soldi, se però vedo che deve portare Carvalho, che ha l'età dei datteri, ormai è, insomma, queste cose non vanno bene. Allora, se porti un programma, porti il nuovo Cristiano Ronaldo, porti delle altre cose, allora siamo è un discorso diverso. È un discorso diverso. Allora, no, dobbiamo fermarci per la borsa. 800 24, per parlare con noi Antonio della provincia di Brescia, stia lì, torniamo subito. Pare, si dice, che i cinesi siano interessati. Pare che Berlusconi sia interessato a cedere, la cifra balla, è che qualunque essa sia arriverà appena dopo la fine del mercato. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Secondo i Cenerentola, i sogni sono desideri. Buonasera, sono Marco Parolo con Ciro Immobile, dobbiamo consegnare un pacco. Possiamo salire? Sì. Ah, dobbiamo scendere. Va bene, grazie. So che sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento. Oggi te la cavi sì, ma non finisce qui. Non ti fidavi, però siamo noi. Siamo forse per lavoro. E ci mancherebbe anche tu. È possibile. Vieni. Ma dai, vai. Perché vogliamo te. Ma no, dai, ma come dai? Apri la schiena. Vai. Danilo, vieni, ti prego, fammi una foto. Ma come la facciamo? Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre. Con noi Fabio Paresi oggi pomeriggio qui in studio, ci ha raggiunti in Tutti Convocati pomeridiano e poi ci ascolterà, vero, in Tutti Convocati alle Olimpiadi? Assolutamente sì. Grande Fabio, geniale mossa di mercato, di marketing della Lazio e di Lotito. Sono Marco Parolo, sono venuto a consegnare un pacco. No, beh, è una cosa, finalmente cerchiamo di sdrammatizzare, di far vedere comunque... di fare in modo che comunque i tifosi restino sempre dei tifosi, pur magari con un orientamento a farli diventare anche clienti, perché può essere cliente tifoso nel momento giusto in poi. È una cosa di marketing interessante. La Lazio aveva bisogno di recuperare il rapporto con i propri tifosi, dura, e quindi durissima. Dura, perché per mille motivi che non riguardano. Un conto è andare a bussare, suonare il campanello a 11 che si sono abbonati il primo giorno. Bottega vuota. Se vai a suonare il campanello, probabilmente a qualche abbonato della curva nord della Lazio ti tira l'olio bollente. Prendi delle assecchiate d'acqua. nella migliore delle ipotesi, io vedo impossibile ricucire. Nonostante questa mossa, i primi 11 abbonati della Lazio, bottega vuota di questi periodi, ma non mi aspetto di vedere la coda alla cassa per quanto riguarda gli abbonati della Lazio, nonostante il porta a porta di Lotito, Parole e compagnia, però la mossa è stata certamente divertente, certamente intelligente. Antonio, buongiorno. Buongiorno Carlo Genta. Buongiorno Antonio. La mia domanda è questa: io tutti gli anni, ogni volta che c'è un preliminare di Champions piuttosto che di Europa League, è successo anche settimana scorsa durante Lucerna Sassuolo, dicono sempre speriamo che la squadra regga perché l'altra c'ha un mese più di preparazione nelle gambe, ma c'è scritto da qualche parte che le italiane devono cominciare sempre per ultime le preparazioni. Beh, a dire la verità non è che cominciano così tardi, no, quelle che fanno i preliminari. Anzi, il Sassuolo credo abbia cominciato il 20 giugno più o meno, se si è radunato, quindi si è radunato per tempo. Poi quando tu vai a giocare contro le nordiche, cioè le squadre del nord Europa, sono in pieno campionato, sono più avanti di te, ma ci sono anche delle questioni climatiche. Cioè, ma anche per esempio... Noi partiamo il 20 agosto, possiamo partire... il 15, il 14, ma non è che possiamo cominciare a fine luglio a giocare a calcio. Assolutamente, perché poi ci sono comunque degli accordi collettivi tra la società del calciatore e le leghe, che comunque anche i calciatori hanno bisogno di periodi di riposo, di vacanza, è giusto così. Per esempio nel caso specifico del Sassuolo, poi il Lucerna, il campionato svizzero, d'estate non si ferma, praticamente si ferma 15 giorni, finiscono e poi stanno fermi perché stanno fermi. Loro praticamente la pausa lunga la fanno d'inverno, è un discorso un pochino così. È perché nevica in Svizzera e quindi è ribaltato, da noi fa caldo. Però vabbè, niente, non ci sono grossi problemi da questo punto però di vista. Però il problema è l'approccio, insomma, il Sassuolo ci dà speranza perché vuole fare quell'Europa League. In passato abbiamo visto che tanti sono andati a farsi il preliminare di agosto così, con una gamba sola e con le mani dietro la schiena. Teoricamente dovresti sempre avere la forza e la volontà di mettere in campo la squadra più forte, qualcuno a discapito del campionato. Adesso però con la nuova formula dell'Europa League, dove comunque andare avanti ci sono più soldi, ci sono più diritti, più ricavi, anche le grandi squadre giocano, anche perché poi è un torneo che serve comunque. Io sono sempre dell'idea che se vuoi stare ad alto livello devi sempre confortarti e avere partite importanti. Non esiste dire sottovalutare una partita perché ce n'è una. Oppure uscire in maniera deliberata, come io sono convinto abbia fatto il Napoli quest'anno, sacrificando quello che poteva essere un grande obiettivo. Simone, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dica. Io volevo fare una domanda per provare ad andare un po' in controtendenza. Il possibile vincitore del prossimo campionato è così scontato, cioè sembra troppo favorevole a tutto chi l'ha vinto per gli ultimi anni e soprattutto chi la sta facendo da padrone in questo mercato. Secondo voi c'è una possibilità che ci possa essere una sorpresa oppure rispetterà i pronostici della vigilia, diciamo così? C'è una possibilità per tutto, però insomma, è più facile vedere gli asini che volano. Io contesto anche l'idea, e ne abbiamo parlato ieri, l'ha detto Moratti, che l'Inter possa essere l'anti-Juve di questo campionato. Secondo me è dichiarazione abbastanza avventata, non so se anche se poi va letta nelle pieghe. Intendeva quella che può arrivare nel campionato degli umani. Adesso la Juve prende anche Luis Gustavo, non lo so, Fabio Parisi, chi altro prende l'Inter? La Juve un centrocampista lo prende sicuramente. O due. Dipende, perché adesso la Juve ne ha. Adesso la cosa principale della Juve è sostituire Marchisio, che è fuori per infortunio. Poi dipenderà da quello che succede tra i vari Lemina, Pereira, ha un sacco di giocatori. La Juve lavora bene. Certo, parte da una posizione di vantaggio rispetto alle altre, perché comunque non ha la serie di dover vincere, perché ha già vinto. Fa una programmazione. Quest'anno è evidente che se tu vai a valutare quella che è l'età della rosa della Juventus e l'obiettivo numero uno è vincere la Champions League, gli investimenti sono stati fatti proprio in quel futuro. Certo. Cioè, con tutto rispetto, però il nucleo storico della Juventus, da Buffon a Barzagli, a Chiellini, a Bonucci, lo stesso Marchisio, insomma, si è deciso. In uno o due anni si deve provare, gli investimenti sono stati fatti. Poi, però, la Juve già... quello che faceva il Milan di cui parlavi tu prima, giocatori che sono pronti per vincere subito. È normale, su un telaio forte, sulla domanda dell'ascoltatore prima è normale, a calcio si gioca sempre 11 contro 11 con un pallone che è uguale per tutti. Ci sono delle oggettive differenze di organico, di mentalità, di motivazioni. Considerando poi che la Juventus, oltre che essersi mossa bene sul mercato prendendo dei giocatori importanti, ne ha anche tolto forse i due più importanti alle due squadre che sono arrivate seconda e terza. Ed è la tua griglia, è vero che mancano 25 giorni alla fine del mercato, griglia pole position la Juve. Griglia a oggi, considerato lo stato del mercato di oggi. Poi in prima fila chi ci mettiamo? Ma griglia in funzione di una vittoria nel campionato o di come hanno operato fino ad adesso? No, di una vittoria in campionato, cioè se domani mattina fosse chiuso il mercato. Che è il 2, il 3, il 4, ma in ordine. Beh, te l'ho detto, sono lì. Credo che l'Inter, il Napoli e la Roma adesso, se sistemeranno un attimino l'organico, saranno sicuramente Inter in questo momento potenziale seconda, Napoli potenziale terzo e Roma potenziale quarto. Ma dire secondo, terzo, quarto, dico, ecco, parliamo magari di fascia. Se in prima fascia c'è la Juventus, in seconda fascia metto sicuramente l'Inter, la Roma Napoli. E Napoli. Io credo che si sottovaluti che cosa il Napoli aveva già in rosa. È ovvio che tu perdi un giocatore che ha fatto 36 gol e ti sei indebolito. Però io lo ribadisco ancora questo concetto. Se tu guardi 3 anni di Higuaín, ti accorgerai che l'anno scorso, con quella stagione straordinaria, si è cannibalizzato tutti i compagni di reparto e alla fine il totale dei gol del Napoli non è cambiato. Il Napoli ha fatto 106 gol contro 104 dei 2 anni prima, gli attaccanti hanno fatto 65 gol, che era più o meno quello che hanno sempre fatto, semplicemente Calleon e Mertens hanno segnato la metà. Io credo che al Napoli basti un attaccante da 15 gol, ma e forse l'ha preso. Ma sono, sposo la tua teoria assolutamente, è un dato di fatto che la rosa del Napoli è molto forte. Io anch'io se dico Higuaín a quella cifra andava sicuramente venduto, anzi se si fosse presentato qualcuno per prenderlo a qualcosina meno, io fossi stato presidente della Laurentiis l'avrei comunque fatta questa trattativa, sì, e ti evitavi la beffa della Juve. Ma mi evitavo la beffa della Juve, va bene. Secondo me per De Laurentiis era peggio se lo prendeva l'Inter, per dire, una concorrente tra virgolette più diretta, più immediata, però la Juve ci dà più fastidio. Sì, sicuramente dà più fastidio, però è vero, la rosa del Napoli è una rosa forte. Adesso hanno preso un attaccante giovane, bravo, come sempre bisogna, c'è il fattore N, che è il fattore Napoli, che è una città sui generis meravigliosa, fantastica, che forse va capita però prima, quindi dovranno essere bravi a aiutare Milik e chi verrà però Hamsik farà da Chioccia e tutti gli altri, quindi la rosa del Napoli è forte sicuramente. Dammi due risposte veloci e sincerissime. Milik vale 32 milioni? Milik vale 32 milioni nel momento stesso in cui ne hai incassati 90 per Higuaín, quindi hai bisogno di prenderlo. Mi dai un voto al mercato del Napoli fin qui? Perché ad esempio da 2 mesi, e ce l'ha detto De Laurentiis, sai che rischi di perdere Higuaín e non ti muovi prima, poi magari Milik lo paghi 32 milioni, e tanti dicono con 90 milioni in tasca, allora perché prendi Zielinski, Tonelli e Giaccherini e anche negli altri reparti non vai su un profilo, almeno uno un po' più importante? Voto perché? Al mercato del Napoli. Ma voto al mercato del Napoli sicuramente 7 e mezzo. Perché quando vedi un giocatore per 90 milioni il voto è alto, eh? Beh, sai, lì allora non è una vendita di programmazione. La Juventus aveva venduto Zidane perché volevano vendere Zidane. Il Napoli ha venduto Higuaín perché Higuaín se n'è andato. Pur che siano contenti che l'abbiano fatto, non siano contenti i tifosi, no, magari la società sì. Però è un mercato che funziona, hanno preso dei giocatori, non dimentichiamoci, non si può prendere solo le stelle, e tu hai visto, le stelle, la fatica, innanzitutto ce ne sono poche, e la fatica che fanno per venire in Italia, se tu pensi che si cercano difensori, sai, Napoli resistere a 45 milioni di offerta per Koulibaly, bene, ma se poi vedi che Musacchio chiedono 25 milioni, Ballì è andato per 38 al Manchester United, ma stiamo scherzando, sono cifre che non... Si è parlato di 60 per Bonucci, che insomma un pensierino ce lo fai. Certo, ma Bonucci è un giocatore che ha determinate caratteristiche, un passato, un presente e certo ancora un futuro, ha giocato a certi livelli, ha vinto, altri giocatori che non hanno mai giocato a livello internazionale quasi vengono pagati delle cifre iperboliche, e questo è un po' così insomma. Dunque, traffico, poi Angelo da Roma, poi andiamo in Brasile. Pam, pam, pam, pam, pam. Tutti convocati. Tutti convocati. Con noi oggi Fabio Paresi, principe del mercato. Angelo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto, da tifoso del Napoli, mi rincuorano molto le vostre parole, perché ho sentito troppe critiche, tantissime critiche sul Napoli, e secondo me il Napoli non se lo merita, sono anni che siamo ad altissimo livello, De Laurentiis ha fatto moltissimo. Beh, Angelo, però dovresti dirlo ai tuoi amici di Fede Sportiva, che sono imbestialiti. Mi sembra che siano 2 anni che i napoletani hanno un giudizio durissimo sulla gestione di De Laurentiis, poi per qualche mese c'è stata la tregua perché c'è stato l'illusione dello scudetto, di gol di Higuaín e tutto, però un anno fa noi raccontavamo già della delusione, sì, dei napoletani perdendo. Però pensiamo a dove era il Napoli, dove l'ha preso De Laurentiis, che l'ha preso in mezzo a una strada praticamente, l'ha portato in Champions League, l'ha portato, poi è chiaro che come non è tanto che hanno fatto male in questi ultimi anni la Roma e il Napoli, la Juventus ha fatto delle cose incredibili, perché se tu adesso non mi ricordo i numeri, ma cioè Napoli e Roma sono arrivate seconde facendo dei punti che ti avrebbero permesso di vincere il campionato. Roma ha fatto secondo posto con 85 punti, il record storico per la Roma. L'anno scorso 82 punti il Napoli, 80 la Roma terza, e fai conto che col campionato a 3 punti e 20 squadre la media per il terzo posto era 72 punti e mezzo. No, non dimentichiamoci, cosa ha vinto la Juventus l'anno scorso? 25 partite di fila. Sì. Cioè, sono cose straordinarie quelle, non passi falsi delle altre. Quindi i tifosi del Napoli devono essere non contenti, stracontenti di quello che sta facendo. Poi io ho la mia filosofia che se il Napoli deve vincere il campionato, lo vince con Higuain, lo vince con Milik, lo vince con un altro, perché sono quelle, devi programmare, tu stai lì e poi prima o poi lo porterai a casa, ma non è che ti devi dannare l'anima, sennò veramente fai il rischio di crollare. Guarda, secondo me la forza comunque anche societaria del Napoli sta nel fatto che rimane stabilmente ad alto livello a quota Champions League. Sì, sono 7 anni che fa l'Europa, tra Europa League e Champions League. Esattamente, e quindi secondo me il valore del lavoro della società lo misuri dal punto di partenza a quello di arrivo, e quello di arrivo è una quota europea stabile. Franklin, un amico, scrive: la Juve ha rubato giocatori alle concorrenti, e poi dice: mi auguro che abbia tanti infortuni. Io credo che la Juve, investendo i soldi, perché poi sono quelli che arrivano dalle cessioni di Morata e Pogba, nel campionato di calcio italiano, abbia in fondo fatto un favore a tutto il sistema, cioè ha rimesso in circolo soldi che consentono alla Roma di stare dentro i paletti del fair play, al Napoli di investire. Io lo so che è un discorso scomodo oggi per i tifosi della Roma e per i tifosi del Napoli, e lo capisco, però meglio così piuttosto che andare a investire le sterline arrivate dal Manchester United da qualche altra parte. Sì, assolutamente sì. D'accordo, sì, proprio sì. La forza è stata quella, ha permesso di mantenere all'interno del sistema quelli che erano dei ricavi. Una delle debolezze del calcio italiano è proprio quella che non si è investito all'interno del sistema, vuoi per semplicemente fare degli stadi o fare delle altre cose, o vuoi perché non si compravano i giocatori. Poi è evidente che se tu vai a chiedere a un giocatore a una squadra di Serie B, a una squadra piccola, e ti chiedono le cifre che girano adesso, diventa magari difficile. Per squadre piccole che non hanno tanti, perché il Milan può comprare la Padula, la Juventus ha potuto comprare Zaza, ha potuto comprare i giocatori, altre squadre non si possono avvicinare e quindi devono usare comprare la fantasia. Devono comprare Brasile, Dario Ricci, nostro inviato. Ciao Dario. Eccoci qua ragazzi. Hai già visto qualche partita? Tu, tra l'altro. Ma sì, in realtà adesso sto vedendo una cosa parecchio interessante, perché sono nel cuore del villaggio olimpico. In questo momento parte l'inno nazionale perché c'è l'alza bandiera. Allora, mani sul petto, direi. Sì, sì, ti faccio serenamente ascoltare l'inno nazionale, sì, alza bandiera. Spero che lo possiate sentire anche voi. Beh, no, no, noi non tanto, Dario. No, però lo sappiamo, lo conosciamo. Credo che non ci siano grandi novità. No, c'è la presenza del Premier Renzi, del Presidente del CONI, ma la cosa soprattutto l'abbraccio di tutti gli atleti che stanno seguendo il nostro tricolore che si sta istando qui nel villaggio olimpico. Di fatto la nostra Olimpiade comincia già ora con l'inno nazionale. C'è stato l'abbraccio di Renzi con Federica Pellegrini, Jessica Rossi, che sono un po' i due volti femminili chiaramente più noti della nostra spedizione, soprattutto Super Fede, che domani sera sarà anche la portabandiera della nostra spedizione nella cerimonia inaugurale. Ma poi l'abbraccio con tutta la squadra, il momento solenne questo. Inizia adesso, in questi istanti proprio, la nostra Olimpiade. Sono tutti gli azzurri che sono impegnati nell'allenamento mattutino, sono qui presenti al villaggio. Ecco, vedo Stefano Tempesti qui davanti a me, il grande portiere, capitano della pallanuoto. Azzurri di ieri e di oggi, per esempio Max Rosolino, che come sapete è un testimonial, è attivo anche nella preparazione atletica dei nostri nuotatori, la stessa Federica Pellegrini, di tutte le azioni della ginnastica qui di fronte a me. Ed ecco l'applauso che saluta di fatto l'inizio della nostra Olimpiade, il nostro tricolore svento da quello della Repubblica Democratica del Congo, di Andorra, che ci hanno preceduti. e sotto, legita, dei cinque cerchi olimpici. Beh, è bello averlo raccontato in diretta. Sì, sì, certamente. In campo una notte il Brasile, no? Sì, 22:50, stasera ne parliamo, ecco, con un grande brasiliano, perché il Brasile ha poche medaglie su cui puntare, pallavolo, tennis tavolo, però insomma sogna questa medaglia qui che non ha mai preso, quella del calcio maschile alle Olimpiadi, deve far dimenticare la vergogna del 2014. Esatto. E quindi ci regala qualche tema, vediamo anche Gabigol, questa notte. Beh, non solo Gabigol. Ma è buono, vale 25 milioni o no? Io non lo conosco benissimo, l'ho visto così per degli highlights, per quelle cose, sento poco quello che mi parlano. È un giocatore che ha del talento straordinario, come anche Gabriel Jesus. Questo trio meraviglie lo vedremo stasera, di questa generazione di giocatori brasiliani che non certo non assomigliano poco a Kaká, Dunga o a... Sì, il Brasile però in clamoroso ritardo di ricambio generazionale. Dario, per chiudere, Dario, poi ci sentiamo ovviamente questa sera dalle 18 alle 20, tutti convocati alle Olimpiadi, grande attesa in Brasile e soprattutto credo sia al di là di chi sarà il portabandiera, no, caduta la linea col Brasile, beh, concludo il discorso io. La grande stella brasiliana dell'Olimpiade, Neymar, no? Mi pare. Sicuro, che è stato tenuto in fresco proprio per questa esperienza olimpica. Il Brasile si è esposto a una figuraccia nella Coppa America, ma quest'estate aveva in testa questo oro qui e questa Olimpiade, e quindi insomma adesso siamo arrivati alle due settimane che devono dire qualcosa. Oh, un amico scrive, la giriamo a Fabio Parisi, ma con l'ignorante di Mancini, dove va l'Inter, che pure è una squadra buona, Ale da Padova, a parte l'aggettivo ignorante. No, ma c'è comunque una grande campagna nerazzurra contro Roberto Mancini. Non lo so da dove nasce questa cosa, questo astio. Forse Mancini è un allenatore che ha sempre amato avere un rapporto diretto, non tanto con la dirigenza, ma tanto con la proprietà o il presidente. E in questo momento di cambio di proprietà non è riuscito a instaurare un rapporto diretto con i nuovi proprietari cinesi. Questo è la mia analisi, giusto o sbagliata, questo non, sì, non sta a me, non sta a me dirlo. E allora è in difficoltà. Poi è chiaro che anche in questo caso sono arrivate una nuova proprietà forte, c'è un programma, è chiaro che magari, parlando di programma, uno si aspetta di farne parte di questo programma e quindi si aspettava un allungamento del contratto. Ma è davvero un tabù questa cosa, cioè che si parta in un grande club, si inizi la stagione con l'allenatore in scadenza. È un po' sì. È una roba tutta nostra. Sì, ma no, è una roba tutta ma nostra. Io non sono d'accordo. È sicuramente un po' una roba nostra, però se andiamo a guardare nello sport mondiale le grandi dinastie, le grandi che siano, che ne so, parlo dei Lakers di Pat Riley o dei Packers di Vince Lombardi, piuttosto che i Niners o Ferguson, questi allenatori sono allenatori che hanno sempre garantito una presenza costante, soprattutto nata, cresciuta, cementata, consolidata, andando avanti, quindi questo è un pochino una cosa, quindi ci sta che si debba programmare, si debba partire. L'ultima cosa, Fabio, poi chiudiamo, riguarda le Olimpiadi. Abbiamo chiesto nei giorni scorsi l'istantanea olimpica che ciascuno di noi si porta in un'immaginaria tasca, in un immaginario portafoglio. Qual è la tua? Olimpica? Sì. Sono tanti, i sogni olimpici sono tanti, io so perché lo conosco, perché sono suo amico, perché l'ho aiutato, perché ho fatto delle cose, so che quando Alex Zanardi parla di Olimpiadi, dopo tutto quello che ha fatto, gli leggi negli occhi qualcosa di diverso. Quindi è una cosa talmente particolare che non si può descrivere. L'Olimpiade. Io mi auguro, credo che, il primo che mi viene in mente, credo che Greg Paltrinieri possa essere l'immagine dell'Italia vincente. Più della Pellegrini. Lei l'ha già fatto, lui è uno. è uno che ha la faccia, la faccia giusta. Esatto. Chiudiamo qui. Fabio Paresi, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie di esserci venuto a trovare. Un piacere. Giovanni Melchiori in redazione, insieme ad Avise Falzone, Gianmarco Ferronati in regia. Con Giovanni Capuano ci vediamo tra... Dalle 18. Poche ore, tre alle ore. Alle 18 alle 20 preparate i vostri WhatsApp. Preparate WhatsApp, a dopo. Quest'anno ci divertiamo, quest'oggi ci divertiamo. Vado a giocare, ci vediamo dopo.